Sì, ho chiesto di intervenire pur non essendo stata invitata al convegno e men che meno a prendere la parola. Però non posso fare a meno di non sapere che alcune delle problematiche di carattere ecumenico, del dialogo interreligioso che si vengono via via ponendo alla teologia contemporanea, oltre che a tutto il resto, derivano da un breve, piccolissimo scritto che io così, su sollecito di Monsignor, sull'invito di Monsignor Sartori, avevo fatto nel 1984 su Popoli Messianici. Ecco, io volevo soltanto rimettere questo articolo, questa pagina nelle mani di Monsignor Sartori, in cui ho sottolineato alcune cose e ne ho tolte delle altre, perché, ecco, per evitare ogni inutile fraintendimento. Ecco, volevo precisare che si tratta, e si trattava allora e si tratta tuttora, di una riflessione personale sul tema del convegno, non direttamente collegata alle relazioni programmate. Invece molte volte l'inserimento, ecco, crea equivoci, disguidi e crea soltanto confusione. Ecco, io glielo do perché ho cancellato alcune cose. Ecco, io penso che queste tematiche sono di un fascino assolutamente indiscutibile, penso per tutti. Ecco, penso che l'Istituto di Scienze Religiose sia la sede, una delle sedi più appropriate per discutere di queste cose. E io sarei molto felice di poter partecipare ai vostri dibattiti, qualora naturalmente me ne venga dato espresso invito. A contribuire in qualche modo, ecco, secondo le forme che voi meglio riterrete opportuno, perché se no si parla, ma non si arriva poi mai a nulla. Grazie. Grazie. Don Molari. Oh, scusa, no, grazie. Allora, questa è la sua borsa. La borsa. Sì, breve, anche tu. Benissimo, sì. Prima vorrei collegarmi a una difficoltà al padre, quindi ecco, volevo fare una. E poi una piccola precisazione. La domanda al padre è questa: non le sembra, padre, che ridurre il problema, adesso mi riferisco alla sua relazione in rapporto al Panikkar, ma anche al libro, al problema della distinzione tra Gesù storico e il Cristo della fede, non risponde in modo adeguato alla problematica, sia di Panikkar che anche più generale del libro? Cioè, il problema non è questo della distinzione tra Gesù della fede, tra Gesù storico e Cristo della fede, perché è chiaro che questa distinzione non si può sostenere, e lei ha pienamente ragione impostando così il problema, ma l'eccedenza del verbo rispetto al Gesù storico e al Cristo. È questo aspetto che io credo, anche se il Panikkar utilizza il termine Cristo, però è questo aspetto che gli richiama. E credo che allora questa terminologia sia più utile per impostare il problema in modo diverso. Cioè l'universalità non è data dal Gesù storico e neppure dal Cristo che è Gesù glorificato, che resta nella sua realtà umana creatura, non accede alla realtà divina il Cristo della fede, nella sua natura umana glorificata. Ma il verbo, cioè la realtà divina, ecco, va bene. Allora aggiungo una piccola cosetta per completare il riferimento che ha fatto Sartori all'articolo. Io riconosco che nell'articolo del Credere Oggi la terza posizione l'ho presentata in un modo troppo unilaterale, cioè conforme all'impostazione che gli avevo presentato. Mentre, soprattutto leggendo poi il libro di. È scomparso. Ah. Dunque, leggendo il libro di Neckerbrook, La terza chiesa, il problema della cultura, oltre che il suo libro, ho visto che le posizioni della terza, elencate nel terzo gruppo hanno delle forme anche molto più radicali. Quindi, come lei ha distinto nella seconda posizione due modi diversi, due forme diverse, così io, se adesso dovessi trascrivere quell'articolo, distinguerei due posizioni diverse, cioè di un teocentrismo cristico o cristologico e di un teocentrismo astorico, come quello che alcuni presentano. Ecco, in questo modo invece il teocentrismo, cioè la terza forma, ma centrata sul Dio rivelato da Gesù, allora acquista, per questa eccedenza del verbo, acquista un carattere assoluto senza perdere il valore storico, e si può capire come un evento piccolo storico possa assumere una dimensione universale, ma passando appunto al teocentrismo cristologico. Ci avrei altre osservazioni, ma capisco che il tempo allora non... Sì, dunque ci sono due domande, la prima su il verbo e il Gesù Cristo. Beh, è evidente che vi è un'attività del verbo non ancora incarnato nella storia della salvezza. Ne parla molto chiaramente il prologo del Vangelo di Giovanni. Parla dunque il prologo del verbo che era presso Dio e del verbo che illuminava ogni uomo, non ogni uomo che viene nel mondo, perché ci sono due modi di capire la sentenza. In ogni caso, illuminava ogni uomo che viene nel ogni uomo. Dunque si tratta dell'attività, dell'operosità del verbo non ancora incarnato attraverso tutta la storia umana. I padri greci del secondo secolo e dell'inizio del terzo, Giustino, Ireneo e Clemente di Alessandria, ne parlano anche. Si tratta dunque, come lo spiegano, di una manifestazione già personale del verbo, oppure di Dio attraverso il suo verbo nella storia umana, però la manifestazione completa, totale di Dio attraverso il suo verbo è quella nell'incarnazione del verbo, e perciò anche culmina il prologo di Giovanni nel versetto 13: e il verbo si è fatto carne e ha vissuto fra di noi. Dunque rimane il caso che il culmine della manifestazione di Dio nella storia della salvezza è l'evento Gesù Cristo, e tutto il Nuovo Testamento e tutta la tradizione cristiana attribuisce la salvezza degli uomini all'evento in cui culmina la manifestazione divina attraverso il suo verbo, cioè al mistero di Gesù Cristo. Dunque è chiaro che vi sia una azione pre-incarnazione, dunque, del verbo, ma rimane il fatto che il mistero della salvezza universale è ciò che accade nel mistero di Gesù Cristo. L'attualità dell'attività salvatrice è del verbo incarnato, è costituito Signore attraverso la sua risurrezione, è presente e operativo come verbo incarnato attraverso la storia umana, con forza retroattiva anche per quanto riguarda la storia prima dell'incarnazione. Vengo dunque alla seconda domanda. Dobbiamo o non dobbiamo dunque tornare da una prospettiva cristologica verso una teocentrica? Viene proposto che non si tratti di un teocentrismo astorico, ma di un teocentrismo storico. Benissimo, ma questo teocentrismo storico allora non può venire staccato dal cristocentrismo. Perciò sto dicendo nel mio libro: non vi è un teocentrismo cristiano che non sia allo stesso tempo cristocentrismo. E infatti nella discussione teologica odierna sulla teologia della delle religioni, la posizione cosiddetta teocentrica, oppure cosiddetta pluralista, rimanda alla posizione di John Hick e così via. E la ragione per cui bisogna passare da un cristocentrismo verso un deocentrismo consiste esattamente nel fatto che non si può più oggi ammettere questo significato universale e assoluto dell'evento Gesù Cristo. Dunque l'intenzione di questa cosiddetta teoria teocentrica è di lasciare fuori l'unicità di Gesù Cristo come salvatore di tutti gli uomini. E ecco la cosiddetta rivoluzione copernicana di cui sta parlando il John Hick. Dunque il suo teocentrismo storico, sì, non vi è problema, ma allora bisogna riconoscere che non può venire staccato dal tradizionale cristocentrismo cristiano e dunque dal valore universale e assoluto dell'evento Gesù Cristo come inserimento personale del Verbo di Dio nella storia umana. Il dibattito è stato interessante, ma insomma, adesso andiamo un po'. Tu sei lungo, Boff, e volevi come? Forza, vieni, va breve, perché mancando il padrone di casa, come? Sì, vengo. Prova a essere breve. Avviatevi intanto. Intanto avviatevi. No. Sì, il pomeriggio soltanto dipende dal padre, da Monsignor Roger. 2:30? 12:30, 2:30 pomeriggio. Sì, adesso vuole andare. Basta. Cosa fate? Come volete? Il nostro capo dice che è ora di andare. Allora, prima devo ringraziare i forti e coraggiosi che sono venuti qui dopo un pranzo di quel tipo. Poi devo dirvi che probabilmente fra mezz'oretta sarà di nuovo per un po' soltanto presente padre di qui, se la discussione che si riaprirà potrà anche recuperare qualche cosa della sua relazione per fare delle domande, bene, se no pazienza. Invece devo salutare la presenza del presidente della regione, professor Andreoli Tarcisio, che è qui, il quale si saluta senza dirgli parole, ma comunque la presenza è già un gesto simbolico di adesione, di simpatia. Noi lo siamo riconoscenti. E da questo momento, dunque, per la parte più pratica, cedo la parola a Monsignor Egger. Però voglio darvi una segnalazione, prima che cominci a parlare lui e farmi tacere me, che lunedì prossimo, non prossimo proprio, lunedì 14, lui insieme a un suo fratello, gemello, compie 100 anni. Mi hanno detto che hanno mandato in giro una foto di loro due bambini piccoli messi insieme vicini. Speriamo che d'ora in poi si faccia il gemellaggio, anche se artificiale, ma sentito, non solo tra Trento e Leningrado, vero? No? State facendo Trento e Leningrado, sì? Ma facciamo Trento, Madras, Padova, Bombay, eccetera. Che cominciamo a fare questi gemellaggi che legano insieme tutta l'umanità intorno alla stessa, speriamo, esperienza religiosa. Adesso basta. Grazie. Sì. Sì, tocca a me introdurre la tavola rotonda. Vorrei cominciare con un aneddoto. Qualche anno fa un mio conoscente a Bressanone mi chiedeva: ma posso leggere i testi delle religioni orientali? E io gli ho detto: sì che puoi leggerli, ma prima devi avere anche una buona conoscenza della tua propria religione, perché se no non è un incontro vero, ma sarà senz'altro più forte quel testo di religione che ti metti a leggere. E questo mi sembra un po' anche il problema di tutto questo incontro e anche dell'incontro delle religioni. Nella mia diocesi, come sapete, è molto sentito il problema dell'identità e del dialogo, però mi accorgo sempre di più, non è solo un problema a livello politico o di chiesa locale, ma anche in questa problematica dell'incontro delle religioni si tratta di questo problema dell'identità e del dialogo. E da noi propongo sempre, se è forte l'identità, se uno anche ha un certo piacere per la propria identità, senza grandi paure, è capace per il dialogo, che poi sarà anche un arricchimento. E in questo senso l'incontro delle religioni è una sfida per tutti noi. Penso anche per tutte le religioni sia anche un motivo, un'occasione di purificazione della fede. Perché tante volte c'è tutto un miscuglio di cose di fede, traduzione culturale, eccetera. E così per noi questo incontro con le altre religioni è un'occasione di purificazione della fede. Come sempre la purificazione richiede anche qualche sacrificio e a qualcuno farà anche paura, forse di più del necessario. Ma poi direi anche questo incontro con le religioni è anche occasione per essere luce per i popoli. Penso che Israele ha sempre sentito questa sua vocazione di essere luce per i popoli e in questo senso l'ha ripreso anche San Paolo, soprattutto negli Atti. La vocazione di San Paolo è sempre descritta essere luce per i popoli. E così mi sembra l'incontro delle religioni è per noi, ma penso anche per le altre religioni, un'occasione di essere luce per gli altri. Poi qualcuno dirà, ma allora sarà troppa luce, no? Tutti quei riflettori, no, delle religioni sui misteri dell'essere, eccetera. Ma lì mi sono ricordato, ci deve essere un detto in Isaia che dice sarà una luce 7 volte più forte della luce del sole. E così quello è anche l'immagine del futuro e delle promesse. E così penso non dobbiamo aver paura di quella luce grande se tutte le religioni si fanno anche luce per i popoli. Per questo convegno parlo anche come membro, come lo chiamano, membro fondatore, no? Fondatore dell'Istituto di Scienze Religiose a Trento, ma poi anche come vescovo delegato per l'ecumenismo e il dialogo, un po' influito anche sulla scelta di questo tema perché mi interessava. E sono molto contento che anche i professori di teologia siano presenti, perché mi sembra, almeno in parte, siamo ancora in tempo per abordare questo problema, che si fa sempre più impellente, in un certo senso, anche un problema di casa nostra, l'incontro con le religioni. E così, anche se poi non per ogni cristiano sarà un... però per tutti noi siamo in tempo per approfondire e avere la giusta sensibilità per un problema che sicuramente verrà tra poco. E poi qui noto anche, dato che la metodologia anche in parte mi interessa da sempre, e così anche questo insistere sulla metodologia mi sembra molto importante, e qui ho colto anche con più consapevolezza che anche nella riflessione teologica, nella teologia, nel metodo, entra anche il dato biografico. Per questo sono molto riconoscente anche per le conferenze di ieri e anche di oggi, in cui almeno io ho colto questa importanza del dato biografico per il dialogo. Ogni dialogo parte da persone concrete, come abbiamo sentito, Panikkar e Dessau, ma c'è tutto un background biografico che entra poi, forse generalizzato a torto, forse generalizzato a ragione, anche nell'elaborazione teologica, anche se è un'elaborazione non ancora compiuta. In questo senso ringrazio anche chi ha organizzato, chi ha fatto tanto lavoro, anche i relatori, ringrazio per questo lavoro e spero che sia utile per tutti noi, per i delegati dell'ecumenismo del Triveneto, o meglio la regione nord-est dell'Italia, no? Come dice qualcuno, mi ha detto ancora prima, comunque per i delegati sarà anche motivo di ulteriore ricerca nel prossimo convegno e poi dovrà anche confluire un po', in quanto anche la conferenza episcopale si propone anche di, nella valutazione complessiva di Aquileia. E così do subito la parola. Legge lui anche la parte di Monsignor Sartori e poi anche a lui do i minuti. A lui ci siamo messi d'accordo 30 minuti, comprendendo questo la lettura mia, no? Sì, quando, no? Sì, no. Forse lì sarò un po'. No, quella un altro sì. Quarto d'ora. No. Lettura e poi. E poi 30. 30 minuti. Lettura e poi 30 minuti. Sì, prego. Beh, io parlo intanto della mia relazione, no? Ah. Mi pare. Dopo viene la sua. Come vuoi? Oppure? Lo stesso? Sì. Forse è meglio questa. È meglio prima questa. Sì. E dopo così tu sei più libero. E non ce l'ho neppure, dammene una copia. Non ce l'hai? Se no la facciamo leggere da Roger. Appunto, che tempo passa? Tu leggi questa? Sì. Mia. È per la voce di Monsignor Sartori. Dove, quando e come collocare il tema delle religioni nel quadro delle materie scolastiche? Le indicazioni ufficiali, sia quelle a livello di Chiesa universale, sia quelle a livello di Chiesa italiana, non fanno spazio ad un discorso specifico di presenza determinante per ciò che riguarda lo studio delle religioni e del rapporto tra cristianesimo e religioni nel quadro delle materie teologiche. Il metodo privilegiato, in maniera quasi assoluta, è ancora quello deduttivo quanto al dialogo teologico tra fede cristiana e altre fedi. Partire dalla nostra fede, bene appresa e approfondita, per aprirci ad eventuali confronti con altre fedi. Ci sono stati alcuni tentativi di avviare almeno un'altra impostazione, quando si è trattato di predisporre istituti di formazione o di aggiornamento pastorale o istituti di scienze religiose, ad esempio nelle nostre regioni dette Triveneto, in quanto intesi come espressione di teologia aperta ai laici e quindi chiamati maggiormente, più direttamente al dialogo con la cultura e con i problemi pastorali concreti. Si cercava di introdurre, almeno parzialmente, il metodo induttivo, partire dal fatto religioso, così come è vissuto nel mondo ed anche nelle nostre regioni, ossia dalla pluralità ed esperienze religiose, di movimenti religiosi, per inserire soltanto dopo e dentro tale contesto l'emergere specifico della fede cristiana. Ma le varie ratio studiorum predisposte anche in questi ultimi anni, sarebbe da dire razione studiorum, allora, predisposte anche in questi ultimi anni, non ne tengono conto. Si fa spazio solo a qualche corso, aggiunto a lato, in nome delle scienze della religione, ma privilegiando di solito psicologia e sociologia, e non il ragguaglio storico e informativo, diretto e specifico, sulle varie religioni e sulle attuali forme di esperienza religiosa diffuse dalle sette o dai vari nuovi movimenti religiosi. Al massimo si arriva ad aprire immediatamente una teologia delle religioni non cristiane, che però non sosti troppo a lungo nell'analisi di queste o nel confronto con la fede cristiana su singoli punti concreti. Uno dei motivi di tale reticenza viene senz'altro anche dalla scarsità di tempo e di competenti disponibili. Se si dovesse far precedere un adeguato e serio discorso di base, partendo dal fenomeno religioni e movimenti religiosi, si arriverebbe troppo tardi al momento specifico della teologia cristiana vera e propria. Eppure, nella pastorale, le urgenze che premono in crescendo sono proprio quelle relative a problemi e ad adattamenti di rapporto. Non è più possibile vivere da separati, protetti in una zona di sicurezza. La situazione si fa sempre più mobile e frammentata, e perciò succede che mentre la scuola ufficiale, che dovrebbe fornire fondamento e alimento per la prassi, elabora una sua teologia alta e distante, secondo la metodologia deduttiva, nel senso sopradetto, la pastorale, si vede costretta ad alleggerire nel proprio conto, quasi ex novo, le sue risposte teologiche a questioni sempre nuove ed urgenti. Certo, non è possibile chiedere alla scuola di approntare un ricettario di indicazioni immediatamente disponibili. Essa può solo fornire orientamenti di fondo e criteri ancora piuttosto generali. Per questo, dicevamo all'inizio del convegno, almeno il confronto serio con le grandi religioni, collocato agli inizi del cursus teologico, potrebbe e dovrebbe servire per dare le prime risposte a quesiti riguardanti il come pensare teoreticamente e come realizzare concretamente il rapporto del credente cristiano, adulto da maturare, con altri credenti o non credenti, o con credenti che passano ad altre esperienze di fede o da questa si accostano alla fede cristiana, sia per simpatia, sia per contestarla o per farne concorrenza. Orientamenti e criteri che comunque potrebbero poi essere adattati alle molteplici situazioni del pluralismo religioso che si sperimenta nella vita pastorale. Dal concilio in poi c'è stata la preoccupazione, anche a livello ufficiale, di dare grande risalto al confronto con l'ateismo, soprattutto marxista. Oggi la situazione è mutata. Si parla di caduta delle ideologie, di crollo dei sistemi, del socialismo reale, dell'Est Europa. Il nuovo contesto è dato proprio dall'ingrossarsi e dall'articolarsi complicato del pluralismo, delle proposte religiose o di altri centri di socializzazione e di inculturazione. Si deve fare teologia sempre più all'aperto, senza confini. Occorre predisporre un piano di rinnovamento, qualche cenno soltanto. Di per sé, ogni singola materia teologica dovrebbe per suo conto iscriversi in un orizzonte di confronto con le molte proposte presenti nella nostra attuale cultura, in riferimento al tema trattato o al tema analogo. Pare ovvio tale criterio per le materie pratiche. Lo sfondo dell'agire umano è ciò che più di ogni altra cosa è comune ed accomuna tutti, ma anche le materie relative alla fede, nel suo aspetto di dottrina e di sapere, sono legate ormai ad analogo impegno, soprattutto la cristologia, l'antropologia e l'ecclesiologia, ma anche la teologia propriamente detta, non solo quella dell'antico De Deo Uno, ma anche quella specificatamente trinitaria. È certo però che la materia più interessata al confronto con le varie religioni o esperienze religiose è quella introduttiva e generale, che ieri si preferiva affidare all'apologetica e che oggi si demanda alla teologia fondamentale, materia questa che sta crescendo di importanza e quindi anche di complessità e di difficoltà. A questo punto si dovrebbe aprire qui un discorso sul problema oggi assai dibattuto della teologia fondamentale, in che cosa differisce dalla vecchia apologetica, quali sono i suoi fini, i contenuti e quali i suoi metodi. Non possiamo fermarci su ciò. Almeno una cosa però dobbiamo tenere presente. Lo stile del dialogo e del confronto ecumenico deve prendere il posto della vecchia impostazione esclusivista e negativa. Ma per il nostro discorso sul tema delle religioni questo non basta. Da dove cominciare? Dai dati della sola filosofia? Anche supponendo che questa a sua volta si presenti già come ermeneutica, che filtra e universalizza le informazioni offerte dalle altre scienze della religione, o anche più direttamente da una ricognizione del fenomeno religioso a livello storico e geografico e non solo squisitamente antropologico, perfino la vecchia apologetica veniva introdotta dal capitolo De religione, per poi passare a rivelazione? Allora forse potevano bastare pochi cenni di carattere generale e piuttosto filosofico sull'homo religiosus. Oggi si dovrebbe ampliare proprio questo capitolo con un de religionibus, che addirittura preceda induttivamente in de religione, e questo a sua volta assumente dalla psicologia, dalla sociologia, dall'antropologia culturale e dalla fenomenologia, e non solo dalla filosofia. Forse l'auspicato, ma variamente interpretato, corso introduttivo sul mistero di Cristo potrebbe svolgere già un momento di tipo induttivo per chiarire il luogo umano e storico del situarsi ed emergere della peculiarità della fede cristiana e per offrire già alcuni criteri di valutazione delle altre fedi nel confronto con quella cristiana. Ma certamente questo discorso dovrebbe farlo con maggiore responsabilità la cosiddetta teologia fondamentale, anche se non spetta ad essa trattare il fenomeno religioso nella specificità delle sue forme storiche. A questo fine dovrebbero provvedere dei corsi speciali, o almeno un corso ad hoc dedicato ad una serie di informazioni, di una serie di informazioni critica sulle religioni e sui movimenti religiosi attuali. Eppure la risposta adeguata al problema dei criteri di giudizio e di prassi da parte della Chiesa e dei credenti cristiani nei confronti delle altre religioni, delle altre esperienze religiose, non può essere piena e completa agli inizi del cursus teologico. Solo dopo i trattati speciali, soprattutto dopo la cristologia e l'ecclesiologia, alla fine del ciclo di studi teologici, possono maturare criteri e orientamenti adeguati, perché si tratta, tra l'altro, di fornire alla pastorale anche direttive concrete di comportamento che coinvolgano le comunità e quindi si incarnino in scelte pubbliche. Perciò si dovrà pensare a riprendere il discorso per renderlo maggiormente concreto e più vicino alla prassi, alla fine del cursus teologico, in sede di specifica teologia pastorale. Anche questa in analogia con la teologia fondamentale collocata agli inizi, corredata da eventuali corsi speciali relativamente a problemi concreti particolari. Ad esempio in riferimento al fenomeno del proselitismo, delle sette, della diaspora, eccetera. O alla competenza delle istituzioni civili e politiche in ordine alla libertà di coscienza, alla pace religiosa, alla tutela dagli abusi nel settore delle manifestazioni della religione. Puntini. È in questo contesto che adesso tante grazie a Monsignor. Mi dovrei ringraziare che ti ho Sì. Tante grazie a Monsignor Sartori.